Grazie perché è bello servire il Signore insieme, vero? E grazie a tutti voi nel servizio, grazie ai capigruppo che hanno cominciato l'avventura con i gruppi in questa fase un po' non facile nel prendere questa attività, ma grazie. Quanti servono in chiesa? Io credo il 90% di noi serve in un'area o in un'altra. Non faccio per alzata di mano, non voglio mettere nessuno in imbarazzo, però io voglio ringraziare ciascuno di voi perché siete parte della famiglia, ma non in una posizione passiva di partecipanti dell'incontro, ma in una posizione attiva che serve in unità per l'avanzamento del regno di Dio. Amen. È bello vedere alcune facce che ce l'hanno fatta. vedo Antonio e Ilaria, ce l'avete fatta, siete di noi in mezzo a noi. Vedo Paolo e Rosa, so che c'è anche Luigi, so che diversi di noi hanno affrontato la sfida del Covid. Grazie a Dio perché Lui è vicino a noi sempre. Amen. Nella malattia e nella guarigione, nelle situazioni facili, nelle situazioni difficili, nella valle e nei verdeggianti pascoli. Lui è sempre il nostro pastore, Lui è sempre alla guida, Lui è inesorabilmente stabile ed è un riferimento sicuro per ciascuno di noi. Amen. Per questo noi andiamo avanti sicuri, tranquilli, sereni, perché sappiamo chi è la nostra guida ed è Cristo Gesù. E io oggi voglio continuare a parlare di eternità, lo sappiamo che questo è il tema, perché l'eternità è così importante che noi l'abbiamo presente, perché non è qualcosa che ha a che fare solo col nostro futuro, è qualcosa che determina il nostro presente. E io vorrei che noi tutti come Chiesa abbracciassimo pienamente la rivelazione dell'eternità per avere una comprensione di come vivere su questa terra. La scorsa settimana abbiamo parlato dei nostri corpi glorificati, perfetti, l'abitazione eterna, celeste che avremo, che non saranno più acciaccati, non saranno più malati, non invecchieranno più, non ci daranno più alcun fastidio, anzi saranno gloriosi, avranno delle caratteristiche straordinarie. Vi ricordate che Gesù si spostava col suo corpo e non doveva aprire le porte davanti a sé? Potrete spostarvi da un ambiente all'altro senza dover aprire nessuna porta. Sarà glorioso perché sarà sempre forte, sempre vigoroso. Non avrete necessità di dormire. Quanti amano dormire? Beh, in eternità non avrai bisogno di dormire, ma avrai comunque la gioia del riposo eterno. È indescrivibile quello che vivrai. Però che cosa determina il sapere che avremo dei corpi eterni, meravigliosi e gloriosi e che rimangono immutabili e sono in salute perenne? A vivere bene anche nel corpo attuale, nella consapevolezza delle promesse che ci saranno e nel chiedere a Dio di questa tenda, di renderla forte e vigorosa, per farne cosa? Per farne uno strumento per la sua gloria, per fare delle nostre gambe, delle gambe che ci portano in posti per annunciare le belle cose dell'eternità ad altri, per avere delle bocche che funzionano bene per promuovere l'edificazione reciproca, per evangelizzare, e così potrei andare avanti con le nostre mani, con i nostri, con tutte le membra del nostro corpo, con le nostre orecchie, quello che ascoltiamo, con i nostri occhi, quello che vediamo, quello che leggiamo, con le nostre menti, i nostri cervelli concentrati sulla parola di Dio. E io vorrei che noi questa mattina concentrassimo le nostre menti, il nostro cuore, tutto di noi a quelle che sono le cose eterne, perché nel concentrarti su di esse non ti stai concentrando su cose che probabilmente avverranno, ma ti stai concentrando su promesse che sono certe e sicure per la tua vita e per la mia vita in eternità. Lo vogliamo fare insieme. E lo vogliamo fare insieme in accordo proprio con quello che c'è scritto nella parola, perché in Colossesi al capitolo 3 c'è scritto: abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Quindi nel fare questo noi stiamo insieme ubbidendo a quello che è un comandamento che ci viene dato dalla parola di Dio. Noi dobbiamo Dobbiamo forzare le nostre menti a concentrarsi sulle cose di lassù. E questa terminologia, avere in mente, abbiate in mente le cose di lassù, è anche tradotta, perché ha vari significati, è anche tradotta con il cercare le cose di lassù o avere affetto per le cose di lassù. Hai affetto per le cose di lassù, hai un desiderio per le cose di lassù. Questo è quello che il Signore ti invita ad avere questa mattina. Abbi amore, passione, affetto, concentrazione, aspirazione. Questi sono tutti sinonimi di questa terminologia. Noi come Chiesa dobbiamo avere affetto e ricercare le cose di lassù. E poi quelle di qua giù prendono tutta un'altra forma. Assumono tutta un'altra prospettiva, ed è questa la gloria anche del fare questo esercizio insieme. E io questa mattina vorrei vedere un aspetto di quello che ci attende per l'eternità. L'abbiamo già letto la scorsa settimana nel penultimo capitolo della Bibbia, e il penultimo capitolo della Bibbia, quindi a conclusione di tutta la narrazione, ci presenta quella che è la realtà che noi vivremo in una nuova terra e in nuovi cieli. Quindi abbiamo visto la scorsa volta che avremo dei nuovi corpi, corpi reali. Non è che aleggeremo sulle nuvole con un'arpa in mano e con questa situazione un po' da pubblicità della lavazza, avete presente, che non mi dà di niente, è asettica, è senza colori, tutto bianco. No, noi staremo nel bombardamento dei nostri sensi in una condizione di delizia e di piacere perenne in un mondo nel quale cammineremo, nel quale parleremo, nel quale ci muoveremo, in un mondo che sarà rinnovato. E pensate, Dio ha già creato questa terra in una maniera stupenda, meravigliosa. Pensate cosa sarà la nuova creazione. E noi nel capitolo 21 di Apocalisse vediamo che tutto questo accadrà. E io vorrei che noi considerassimo il fatto che la nostra storia è una storia a lieto fine. A quanti piacciono le storie a lieto fine? La tua storia, posso darti un incoraggiamento questa mattina, è una storia a lieto fine. Forse hai proprio bisogno di sentirtelo dire questa mattina. Forse perché sei nel dramma più totale, sei perso, sei smarrito, sei agitato, sei turbato. È Gesù che dice: il vostro cuore non sia turbato. E poi che cosa aggiunge ai suoi discepoli? Perché io vi vado a preparare un luogo. Quindi quando noi ci concentriamo sulle cose di lassù e sul lieto fine che noi vivremo, il turbamento attuale si ridimensiona. E io questo è il mio veramente desiderio da pastore per la nostra Chiesa, è che non possiamo essere turbati. Anche quando Gesù descrive, no, nel famoso discorso sul Monte degli Olivi, e descrive le varie situazioni, continua a dire: ma non siate turbati, non vi fate sorprendere da queste cose, state tranquilli, rimanete saldi, state vigili, siate pronti, ma non siate sorpresi da tutto questo, perché avverranno determinate cose, e determinate cose stanno avvenendo, ma la speranza dell'eternità in Cristo Gesù ci dà sicurezza e tranquillità. La nostra storia è una storia a lieto fine. La scorsa settimana io e mia moglie siamo andati a vedere un film, e dopo il film ho chiesto a mia moglie: beh, che ne pensi del film? No, mi è piaciuto perché era a lieto fine. Perché a me basta che è a lieto fine e mi piace qualsiasi film. A mia moglie non piacciono i film drammatici, quelli catastrofici, che a me piacciono tanto, no? che ti lasciano proprio con un senso di amaro e di dubbi e di domande. No, lei vuole il lieto fine, dove tutto si sistema, dove tutto è tranquillo. Quanti sono con mia moglie e amano i film a lieto fine? Vedo diversi di voi. Ecco, la nostra storia è a lieto fine. Amen. E questo per Cristo Gesù. Lui ha pagato il prezzo del nostro riscatto su quella croce. ed è a lieto fine non perché te lo sei guadagnato, ma perché lui l'ha guadagnato per te. E su quella croce, quando Gesù, prima di sospirare, ha detto: tutto è compiuto, tutto è compiuto. Il piano di salvezza di questa umanità è adempiuto nella croce di Gesù Cristo. E chi riceve quella croce non muore, ma passa da questa vita alla vita eterna. Una vita che ci viene descritta in questa maniera: egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Il luogo che ci attende è un luogo di gioia. Ed è un luogo di gioia non perché vivremo una gioia che sarà determinata da quello che avremo tutto attorno e quello che saranno le circostanze e le parole che ascolteremo e tutto l'ambiente che vedremo e vivremo, ma sarà un luogo di gioia già solo per l'assenza di dolore. Noi questa gioia non la conosciamo. Quando noi viviamo gioia su questa terra è sempre una sovrapposizione di alcune sofferenze e di dolori che rimangono nella nostra vita. E quindi noi abbiamo una percezione di una gioia, ma non sappiamo che cos'è la gioia completa senza alcun dolore, con l'assenza più totale di ogni sofferenza. Ogni sofferenza che ti riguarda, ogni sofferenza che riguarda gli altri. Non è una cosa meravigliosa? Noi oggi siamo sofferenti, ma non solo per una sofferenza individuale, perché probabilmente io mi auguro che la maggior parte di noi sta bene, ma basta accendere un televisore, basta ascoltare una notizia, basta aggiornarsi sulle circostanze attorno, e questo porta sofferenza in noi, a meno che siamo del tutto cinici e distaccati da quello che accade attorno a noi, ma non credo che è il nostro caso. Quindi la sofferenza che ci circonda porta sofferenza in noi, e la gioia che noi viviamo è parziale, ma quando saremo nei nuovi cieli e nella nuova terra ci sarà assenza di sofferenza, ci sarà assenza di dolore, ci sarà assenza di grido, ci sarà assenza di cordoglio, e quindi la gioia sarà completa, totale, duratura, eterna. Ma siete un po' entusiasti con me, perché io lo dico in maniera entusiasta, però non so se tutti voi siete entusiasti con me. Mi guardate come a dire: mi sta di nuovo parlando della mia morte, mi sta di nuovo dicendo: ricordati che devi morire. Sei contento di quello che ti attende? Ve lo voglio far leggere anche in Matteo 25. Vi ricordate la parabola dei talenti? E quando Gesù presenta questa parabola, presenta anche, come in tante altre parabole, la realtà dell'eternità e il premio che attende coloro che hanno fatto un buon investimento della loro vita, prima di tutto avendo fede in Cristo Gesù e poi vivendo una vita in relazione con Lui e in servizio per l'opera sua. E quando il Signore ha questo approccio ai due uomini che hanno ben investito i loro talenti, in entrambi i casi quello che Dio dice è: buono e fedele servo. Tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose. Ascoltate ora, e dice: entra nella gioia del tuo Signore. Questa è descrizione della vita eterna. Entrare nella gioia di Dio. Mentre l'inferno ci viene descritto come un luogo di cordoglio, di sofferenza, di dolore, di stridor di denti, di buio, di assenza della presenza di Dio, l'eternità con Dio è un'eternità nella gioia. Ascoltate quello che c'è scritto in Isaia capitolo 65 dal versetto 17, che parla sempre dei nuovi cieli e della nuova terra. C'è scritto: poiché ecco, io creo nuovi cieli e una nuova terra, non ci si ricorderà più delle cose di prima, esse non torneranno più in memoria. Gioite, gioite sì, esultate in eterno per quanto io sto per creare, poiché ecco io creo Gerusalemme per il Gaudio. Io creo, dice Gesù, dice Dio, io creo Gerusalemme per il Gaudio, per la gioia, per il piacere. Questo è il Gaudio. Dio sta preparando un luogo, una dimora, che ha un obiettivo specifico, farci gioire. Non è meraviglioso? E poi aggiunge, è il suo popolo per la gioia. Quindi Dio non solo crea un luogo che è di gioia, ma anche ha la premura di avere un popolo che è gioioso. Quindi il luogo dove staremo sarà gioioso. E noi saremo in gioia. E non solo, poi aggiunge, io esulterò a motivo di Gerusalemme e gioirò del mio popolo. E quindi il luogo sarà di gioia, noi gioiremo, Dio gioirà. Sarà una festa perenne, una cosa straordinaria. E poi dice, là non si udranno più voci di pianto né grida d'angoscia. Ancora una volta, anticipa il profeta Isaia quello che poi leggeremo nell'Apocalisse, da Giovanni. Vi rendete conto di quello che ci attende? Tu avrai gioia. Saprete, io credo che avremo difficoltà a riconoscerci subito. Prima di tutto perché avremo dei corpi gloriosi e pare che i corpi gloriosi siano un po' diversi dai corpi attuali. Vi ricordate che Gesù non lo hanno riconosciuto quando è risorto, no? In un corpo glorioso. Non subito lo hanno riconosciuto. Però io credo che le nostre facce saranno diverse perché non avranno più nessun tipo di ruga e nessun tipo di sguardo incupito e triste. Saremo splendenti. E saremo gioiosi, rilassati. Questo è quello che ci attende. E forse a questo punto del messaggio ti stai chiedendo, come io mi sono chiesto nella preparazione, nello studiare queste cose, ok, ma questa consapevolezza, cosa cambia nella mia vita di oggi e nella mia quotidianità? Cambia tutto. Cambia tutto. E io vorrei che noi lo scoprissimo insieme, perché cambia la tua prospettiva delle cose, perché cambia il tuo orientamento, i tuoi pensieri cambiano e poi cambia proprio come percepisci la vita e come percepisci anche Dio, perché noi a volte vediamo Dio come colui che deve rispondere un po' all'esigenza del genio della lampada, no? Darci tutto e subito, perché noi siamo la generazione del microonde, dove vogliamo tutto e subito, qui e ora. E la parola di Dio ci dice che questa mentalità è una mentalità del secolo, è una mentalità di persone che non hanno la comprensione di chi Dio è, perché Dio è eterno. E quando tu non hai la percezione dell'eternità, tutto ciò che occupa i tuoi pensieri, le tue preoccupazioni, ciò che accade qui, su questa terra, è ora. Questo è ciò che conta. È per questo che le persone diventano spietate, avide, è per questo che tanti peccati si manifestano nella nostra vita, perché vogliamo tutto qui, ora, subito, in questo momento, in questo luogo, per questa vita. Ma quando abbiamo una prospettiva eterna, allora tutto assume un'altra valenza su questa terra, nelle nostre giornate. E per questo percepire che noi avremo questa gioia produce in noi un'aspettativa e un orientamento molto diverso. Io voglio farvi un esempio molto pratico e attuale che sto sperimentando nella mia vita, perché sapete che un paio di settimane fa c'è stato il mio compleanno e la mia famiglia mi ha fatto un regalo. Mi ha acquistato un Kindle, che è un dispositivo che ti permette di leggere centinaia di libri ed è molto comodo, la lettura è molto, molto facile, lo puoi leggere al buio, lo puoi leggere ovunque, ha una buona lettura ed è un bellissimo regalo, ma io non l'ho ancora avuto. E questo diventa proprio un appello anche in maniera pubblica per denunciare una situazione di ingiustizia che c'è nella mia famiglia, perché mi hanno regalato sì una cartolina con la promessa di questo Kindle che verrà, che c'è, evidentemente l'hanno comprato, è per me, è del mio compleanno, e io quando ho letto di quel regalo gioivo e gioisco oggi perché so che quel regalo è mio, però non ce l'ho. Non so se non è ancora arrivato, non so se hanno cambiato idea, forse è arrivato a loro, l'hanno visto e hanno detto è troppo bello da darlo a Mirko, forse si è dimenticato di questo regalo. Allora io vorrei dire davanti a tutti voi che non mi sono dimenticato di questo regalo, che lo attendo con una certa aspettativa e la mia gioia è proporzionale a quella che è la fiducia che ho in coloro che me l'hanno regalato. Io mi fido. Comincio ad avere qualche dubbio, ma mi fido dei miei familiari, io mi fido di Gianluca, di Carli, di miei genitori, di mia moglie, che io mi fido di loro e so che non mi hanno preso in giro nel momento in cui hanno scritto quella lettera, hanno detto questo è il tuo regalo, io so che quel regalo lo avrò e in questa attesa io gioisco come se fosse già mio, capite quello che voglio dirvi? È vero per ogni acquisto che noi facciamo, oramai tutti noi siamo abituati un po' agli acquisti online, no? Tu lo compri, sai le caratteristiche, lo hai visto, lo hai visionato, è già tuo. Hai solo l'attesa della consegna. Quando compri una macchina, vai in concessionaria, vedi già la macchina, e questo forse è un esempio ancora più calzante nella condizione in cui ci troviamo. Tocchi la macchina, percepisci la macchina, non è tua e non è completa. Però poi la compri e l'attesa è un'attesa che è già in virtù, è in vista di quel regalo. E quindi se hai una macchina da rottamare, magari non la vai a pulire così spesso come la pulivi prima. No, non ti prendi così cura come se fosse la tua gelosa unica, il tuo geloso unico mezzo di trasporto. No, perché sai già che ci sarà qualcosa di migliore. Vedete come cambia la prospettiva della promessa dell'eternità. Il sapere che avrai qualcosa di migliore per l'eternità e questo sarà una cosa che vivrai e sarà accessibile nel momento in cui lascerai questa vita e andrai nella vita successiva o nel momento in cui, e nessuno di noi sa, Gesù tornerà e Gesù potrebbe tornare oggi. Quindi non è così poi distante. Si tratta di pochi anni di attesa e poi vivremo tutto questo. Questa attesa non ci deve confondere, non ci deve disturbare, non ci deve preoccupare, non ci deve disorientare, anzi ci deve dare orientamento. Ho ascoltato questo predicatore che diceva pensate di vivere oggi come se Gesù tornasse domani, che cosa faresti? Probabilmente qualcuno direbbe, se domani dovesse tornare Gesù, il mio conto in banca, lo do alla missione, completamente, non vale la pena tenerlo. Oppure quello che mi resta da vivere in questa giornata lo dedicherò per annunciare l'Evangelo affinché altri possano accettare Gesù. E quel pastore aggiungeva, bene, allora vivi in questa maniera, perché Gesù effettivamente domani potrebbe tornare. Chiesa. Gesù sta per tornare. Chiesa, l'eternità non è così distante. Chiesa, e questa è una buona notizia, perché la nostra storia è una storia a lieto fine. Amen. Vi ricordate quando le 12 spie furono mandate nella terra promessa? E queste 12 spie tornarono indietro con dei frutti del paese. E questi frutti erano straordinari. Pensate che un grappolo d'uva Non era possibile portarlo da soli, era talmente pesante che c'erano due persone che portavano questo grappolo d'uva perché era un frutto così, così abbondante ed era un'anticipazione di quello che avrebbero vissuto entrando nella terra promessa. Beh, questa è una buona immagine di quello che Dio ci dà da vivere oggi. Quindi la gioia eterna non è solo qualcosa che dobbiamo pensare come un'eredità che vivremo, certamente sarà completa quando la vivremo, quando andremo da Gesù. Però io vorrei che noi considerassimo il fatto che Lui ci dà modo di pregustare oggi quella gioia. La gioia è il frutto dello Spirito. Il frutto dello Spirito per la tua vita è amore, gioia, pace. Sono solo i primi tre. Guardate l'ordine. L'amore ti viene dato mediante lo Spirito Santo. La gioia ti viene data oggi. E puoi pregustare, assaggiare la gioia eterna nella tua permanenza terrena. Oggi, se hai bisogno di gioia, se ti rendi conto che sei triste, se ti rendi conto che c'è ansia nella tua vita, se ti rendi conto che sei angosciato e appiattito, schiacciato dalle circostanze, posso ricordarti oggi che Gesù ci invita a pregare: venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta nei cieli. Noi possiamo pregare che Dio porti a noi dei frutti della terra promessa, e quei frutti noi possiamo già assaporarli, già gustarli, già mangiarli, e tutti i gusti che ci è dato di pregustare in questa vita non faranno altro che attirarci alla vita che verrà. Il credente che vuole Dio per la guarigione del proprio corpo su questa terra ed è completamente disinteressato a quello che avverrà nell'eternità è un credente egoista ed è un credente miope che non vede la grandezza del piano eterno che Dio ha stabilito. E noi dobbiamo comprendere che ogni guarigione che Dio dà ai nostri corpi è un modo per attirarci alla visione eterna, è un modo per dirci: questo corpo, questa tenda passeggera, questa tenda che si corromperà, questa tenda che perderà vigore negli anni, io la guarisco, perché questa è una promessa che Gesù ci dà, ma la guarisco affinché voi possiate assaggiare e possiate essere attratti a quello che verrà, corpi glorificati. Quando ti fai una gita e vai in mezzo alla natura e vedi la maestosità delle montagne o del mare, delle spiagge, della bellezza del creato, questo è un assaggio che Dio ti dà di quello che tu vivrai per l'eternità. La pace che Dio ti ha dato in questo incontro e che ti dà in questo incontro è un modo per farti pregustare, assaggiare la pace perenne che tu vivrai per l'eternità e ad attirarti ad essa. La protezione che tu hai nella tua vita, per te e per i tuoi figli, e per la quale hai pregato, hai visto la manifestazione potente di Dio che ti ha protetto i tuoi figli, è un assaporare la sicurezza perenne che tu avrai nei cieli in Cristo Gesù, dove sarai sempre protetto, sempre al sicuro e non soggetto ad alcun incidente e ad alcuna precarietà. Capite come cambia la nostra percezione, la nostra fede, il nostro cammino, il nostro altruismo, il nostro stare insieme come Chiesa. Il nostro avere il piacere di essere edificati da sorelle o da fratelli che ci amano, che ci stimano, che manifestano con parole di approvazione, di edificazione, beh, quello è un pregustare il fatto che noi saremo insieme per l'eternità, il popolo gioioso di Dio che nella perfezione della nostra santità avrà modo ancor di più e ancor meglio, anzi in una maniera eccellente, modo di edificarsi a vicenda e far sentire a vicenda quell'amore completo. Oggi pregustiamo. Oggi assaporiamo, e quello che assaporiamo è già meraviglioso. Siete d'accordo con me? Io credo che se siamo qui è proprio perché abbiamo pregustato la salvezza, abbiamo pregustato questi frutti. Immaginate quello che verrà, quanto glorioso sarà. Voglio ricordarci, e con questo concludere, che per la maggior parte di noi la vita su questa terra sarà quanto di più vicino vivremo all'inferno. Per altri, la vita su questa terra è quanto di più vicino vivranno al paradiso. Questo è il tempo della scelta. Questo è il tempo della grazia. Questo non è il tempo del giudizio. Questo non è il tempo del bivio definitivo. Questo è il tempo nel quale tu puoi decidere che cosa farne della tua vita. E questi messaggi che ho voluto condividere, andremo avanti nella restante parte di questo anno in questa direzione, per farci un po' percepire il peso dell'eternità, lo ribadisco, è per darci orientamento in questo anno e chiederci che cosa ne vogliamo fare della nostra vita nel 2022. Vogliamo perderci, vogliamo disorientarci, vogliamo andare col vento, vogliamo seguire la maggior parte, vogliamo essere condizionati dal mondo che ci circonda, vogliamo inseguire le cose che ci possono dare una parvenza di pace, di stabilità e di gioia e di benessere terreno, oppure, alla luce dell'eternità, vogliamo arrendere la nostra vita, arrendere il nostro tempo, arrendere questo nuovo anno e dire: Signore, in fin dei conti, ciò che conta sei tu. E non solo a parole di un canto che cantiamo, ma sei tu per oggi, 23 gennaio. E sarai tu per me, 24 gennaio. Sei tu la cosa più importante. Perché ogni gioia terrena sarà passeggera, ma la gioia che io posso gustare alla tua presenza, nell'opera che svolgo per te, nell'evangelizzare e portare altri a conoscenza di questa salvezza, beh, questa sarà la mia eredità per l'eternità, e questo è ciò che conta, e per questo io voglio vivere. In questo anno io sono convinto che ci saranno persone toccate dallo Spirito Santo, alle quali lo Spirito Santo parlerà per andare in nazioni dove avranno un disagio rispetto alla condizione dell'Italia, di Modugno. Nazioni dove è difficile vivere, nazioni dove si è a rischio di vita per la persecuzione, ma dove Dio ti chiamerà per portare questa luce, questo messaggio, affinché la tua eredità in eterno sarà gloriosa, perché con te attirerai altre persone di altre nazioni, di altre etnie, e forse solo tu potrai raggiungerle. E Dio chiama te a vivere un'esistenza qui su questa terra in virtù di quello che in eternità andremo a godere, a vivere e ad apprezzare. Ci sono persone che in questo anno il Signore chiamerà e sfiderà a servire e a mettere priorità nel servizio di Dio per la Chiesa. Persone che dovranno fare dei sacrifici per permettere che questo servizio abbia priorità. Dovranno sgomitare col tempo, dovranno riposizionare il proprio calendario, le proprie priorità, dovranno rinunciare a delle cose molto più belle rispetto a servire la Chiesa. Servire, discepolare, curare altri credenti, magari anche poco soddisfacenti nel loro percorso, nel loro lasciarsi correggere, guidare, ammaestrare. Ma il Signore metterà questo peso su di te, ed è un peso che Dio mette su di te, perché Lui vede oltre, Lui vede l'eternità, e Lui non vuole che tu abbia un soggiorno e una permanenza terrena gioiosa per poi vivere un'eternità ridimensionata rispetto a un piano più glorioso che Lui ha per te. Lui vuole darti premi, e sapete, la parola di Dio, e toccheremo questo aspetto, non parla solo del premio più importante e superiore, che è la salvezza per l'eternità, che si ottiene per grazia avendo in fede in Cristo Gesù, ma ci sono dei premi per chi soffre per l'Evangelo, ci sono dei premi per chi è martire per l'Evangelo. Oh, che premi gloriosi per coloro che muoiono per il bene dell'Evangelo. Ci sono dei premi per coloro che si sacrificano per la Chiesa, che soffrono per i credenti, che soffrono nel servizio. Ci sono dei premi che ci permetteranno di vivere un'eternità, se mai fosse possibile, ancora più gloriosa rispetto a quello che già ci attende nella salvezza. Io voglio afferrare i premi che Dio ha per me. io non voglio barattare i premi di questa vita terrena per i premi eterni che Dio ha per la mia vita. Io sono convinto che sto parlando a tante persone che vogliono la stessa cosa. Allora io ti incoraggio, oggi è il giorno, non rimandare a domani, oggi è il giorno di decisione. Oggi è il giorno di dire io faccio sul serio davanti a Dio e davanti alla sua parola, perché voglio questo, io voglio afferrare questo, perché mi fido del donatore, perché mi fido delle sue promesse. Non sono una lettera che chi lo sa se si avvererà. Non sono parole di un regalo che probabilmente avremo e che adesso è molto grigio, incerto. Se conosci il tuo creatore, se conosci il Dio che ti fa queste promesse e se ti fidi di Lui e del regalo che Lui ha per te per l'eternità, non perderti nelle bugie che ti vengono propinate dalla generazione nella quale viviamo, dalle bugie che ti vengono date dal nemico che vuole distoglierti da quel piano glorioso. Tu sei su questa terra per una ragione. Dio ti ha creato per vivere oggi con uno scopo, e quello scopo è meraviglioso, perché in te altri avranno la salvezza per l'eternità. Se tu questa mattina con me dici io è questa la vita che voglio vivere, non so neanche come si fa, ma una cosa voglio fare, mettermi in gioco e arrendere i giorni a venire, arrendere i miei pensieri, arrendere i miei piani, i miei progetti a Dio, arrendere la mia vita. Se questo è il tuo desiderio, io ti chiedo, dovunque tu sei in questa sala, di alzarti in piedi, anche da casa. Posso chiederti, se ci stai seguendo da casa in questo momento, il gesto di alzarci in piedi non è un gesto che fate per me o per altri, anche se è importante fare un gesto pubblico per dire io pubblicamente decido, io pubblicamente lo voglio far vedere anche agli altri che questa è la mia decisione per la mia vita. Ma anche se sei a casa, è Dio che lo vede, questo è ciò che conta. E io ti chiedo, se sei a casa e stai seguendo questo messaggio in questo momento, lo Spirito Santo sta toccando il tuo cuore e ti sta portando a una decisione, falla. E vi chiedo ora di alzarvi in piedi, voglio pregare per chiunque si alza, da casa, qui in sala, su in regia, dovunque ci troviamo. Vogliamo chiudere i nostri occhi, alzare le nostre mani. Cos'è la vita, Gesù? Questo pugno di anni che ci sta davanti, in vista delle tue promesse, noi afferriamo questa mattina. Ti sono grato per la presenza dello Spirito Santo in questo luogo che ci ha dato concentrazione di porre mente alle cose di lassù. Grazie Spirito Santo, perché solo mediante il tuo intervento noi possiamo vivere questo. Solo tu ci permetti di guardare oltre ciò che la carne ci porta a vedere. E io ti onoro, Spirito Santo, ti lodo e ti ringrazio per la tua presenza nei nostri cuori, nelle nostre vite e nella nostra Chiesa. E qui in piedi ognuno di noi ti dice, Gesù, vogliamo vivere per te. Per noi la frase dell'Apostolo Paolo non è solo qualcosa che vogliamo che ci ricordi un grande uomo del passato, ma la vogliamo far nostra. Noi vogliamo vivere per te, Cristo, e morire per ottenere guadagno. Gesù, per noi vivere sei tu. E noi in questo anno in questo tempo che ci sta davanti, vogliamo servire per l'avanzamento del tuo regno. Vogliamo servire affinché il discepolato delle nazioni possa avere una spinta da parte nostra come Chiesa, possa avere un vigore da parte nostra come Chiesa, che tutto di noi, che siano talenti o siano beni materiali o che sia il tempo, che sia qualsiasi cosa che abbiamo da offrire, io prego che come Chiesa possiamo essere quell'esercito che insieme combatte affinché molte altre persone abbiano almeno la grazia di poter sentire il messaggio che porta a salvezza, abbiano almeno la grazia di poter fare una decisione su questa vita. Io ti prego, Padre, affinché tu possa servirti di ognuno di noi e tu solo ci puoi coordinare come esercito, tu solo puoi unirci, tu solo puoi farci funzionare bene, farci collaborare. Padre, siamo insufficienti, tutti siamo insufficienti a questo, ma tu no. Tu hai ben chiaro e ben in mente quello che ciascuno di noi è chiamato a fare. Tu hai delle opere precedentemente preparate affinché noi le compiamo. Noi crediamo in quello che la tua parola dice. E io voglio pregare per la tua Chiesa e per ognuno di noi affinché ognuna delle opere che tu hai precedentemente preparato, che sia seminare l'Evangelo ai nostri familiari, vicini, colleghi, o sia a scuola, o sia al lavoro, in qualsiasi contesto, o sia servire la Chiesa, o servire la missione, Padre, io prego affinché ogni opera che tu hai precedentemente preparato per noi, che noi possiamo compierla, non rimandarla, non ridimensionarla, non accettare la bugia, è troppo difficile, è troppo sacrificante, è troppo doloroso, perché che cos'è il dolore, la sofferenza di questa terra per queste cose, in virtù del peso che produce nella gloria dell'eternità che vivremo. Ci vedi con le mani alzate, Padre, vogliamo dirti insieme: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà nelle nostre vite, nella nostra Chiesa. Per chi è a casa, Padre, io prego la stessa cosa. Tocca ora i cuori di coloro che forse vivono con distanza questo incontro e queste parole, ma io prego che lo Spirito Santo, come presente in questo luogo, che possa essere presente in ognuna di quelle stanze e possa convincere, possa rinvigorire la forza dei tuoi figli. Grazie Gesù, perché vuoi fare di noi un popolo di gioia, un popolo gioioso, e noi vogliamo gioire alla tua presenza. Oggi prego per chi è nella tristezza, prego per chi è smarrito, prego per chi è incupito, prego per chi è depresso. Nel nome di Gesù io prego che tu possa alzare lo sguardo di queste persone in maniera miracolosa e permettere a loro di ricevere la gioia che fluisce dal tuo regno, dal tuo trono, in questo momento, nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo stare ancora alla sua presenza, vogliamo adorarlo, vogliamo cercarlo, c'è una bellissima e meravigliosa presenza dello Spirito Santo. Lasciati di guidare da Lui, parla con Lui, conversa col tuo Dio, fallo ora.